impoverisce quelle che sono le strutture di cui usufruisco, che è la scuola per mio figlio, che è l'ospedale quando ho bisogno, che è la luce per l'illuminazione del paese quando faccio una camminata di sera. Non bisogna essere orgogliosi di questo, io non sono un esempio, ma è una necessità. Quando abbiamo deciso di depositare la querela, in noi è sceso un senso di pace, un senso di aver portato a termine un dovere. Che poi la procura abbia ritenuto fondate le nostre, i nostri suggerimenti, la nostra storia e quello che è successo, e sia, abbia proseguito per conto suo le indagini, vuol dire che ancora un sistema buono, giudiziario, anche se lento, c'è. Ora Oscar, mi dica, cosa c'è dopo il concordato dei grandi gruppi per noi? Solo fare altrettanto con fatturati più piccoli? Cosa succede alle persone come me che per giusta causa non riescono a pagare? Niente, tu sei un delinquente, tu sei un evasore. Manca un pezzo che deve esserci, deve essere costruito. Sabato, grazie al giudice Fontana che conclude il libro con una sua riflessione avallando le mie parole, perché a un certo punto mi sentivo quasi malata, ma nessuno mi dava la diagnosi, quindi le parole del giudice Fontana hanno in qualche modo detto sì, la signora non vaneggia, guardate che succede veramente questo, dando forza al libro, perché non è una lamentela comune da bar dove si dice le tasse, no. Ecco, quindi avvalla tutto questo. E sabato hanno invitato me, l'editore, a Cortina e io ho ascoltato per 4 ore curatori fallimentari, giudici di tribunale, dove elencavano una marea di articoli di legge. Se le dicessi che ho capito tutto sarei veramente bugiarda. C'è stato un momento in cui non sapevo più se stavo dormendo, se ero sveglia, ma la cosa che mi teneva sveglia era che non ho mai, mai sentito una sola parola su cosa succede una volta che noi abbiamo smembrato queste aziende. Allora, Serenella, io non nascondo che mi sono commosso anche ascoltandole in questa sua tirata, perché io posso dire solo agli ascoltatori, leggetelo davvero questo libro, Io non voglio fallire, di Serenella Antoniassi, Nuova dimensione, perché come avete capito l'individuazione dei buchi normativi per consentire a chi vuole andare avanti di andare avanti facendo quello che le associazioni di impresa non fanno nasce dalla vita, dal sangue, dal calore di chi ha questa idea di come si sta con i propri dipendenti e non si rassegna a ridare altre fregature ad altri privati. Grazie Serenella, perché secondo me è una grande lezione di civiltà e non di impresa, di civiltà umana. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani alle 17:30, ci vediamo a Verona alla Gran Guardia.